abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla verticale a cercare Dzeko, colpito dal pallone, ma attenzione perché è un assist, è 1-0! Ed è 1-0, subito il Sharawi! Subito il Sharawi! Il faraone, secondo gol consecutivo! Prova ad andare verticalmente, palla che filtra, attenzione, al piazzato! 2-0! Ancora il Sharawi sulla dormita difensiva del Chelsea! Notte da faraone! 2-0 Roma! Sono quelle notti che ti porti dietro per tutta la vita. Una serata davvero speciale per me, che è stata la mia prima doppietta in Champions, ma soprattutto per la squadra che ha fatto una partita perfetta. E bravo Kolarov ad arrivare, adesso Perotti può puntare ancora, è l'uno contro uno, Perotti fino in fondo, Perotti! 3-0 Roma! Che giocata! 3-0 Roma! Perotti a coronamento di una partita fantastica. Ma io non c'ho nessuna rivincita da prendermi, credo molto nel lavoro, credo molto in quello che propongo, i ragazzi ci hanno messo un pochino a interpretare, a capire realmente quello che gli chiedo, però c'è stata sempre grande disponibilità e adesso stiamo raccogliendo i frutti. Questo deve essere un percorso che sta continuando, non solo con chi ha giocato stasera, ma chi costantemente si allena in un determinato modo e chi va in campo sa sempre quello che deve fare. El Sharawi di Francesco, Giorgio De Luca, il nostro autore Gianmarco Ferronato in regia. Niente festa per noi e nemmeno per voi. È al telefono 800 24 00 24. Pierluigi Pardo, Halloween alla cacio e pepe, eh? È così che si festeggia, eh? Ieri sera gricia per me, Chelsea, gricia per me. Abbiamo sentito la tua voce raccontare di questa vittoria della Roma. Il Chelsea non è stato battuto, è stato asfaltato. Conte, poi lo sentiamo, si appella alla sfortuna nel primo tempo, eccetera. Secondo me è anche un po' così appellarsi alla sfortuna quando prendi tre fischi. No, ma in fondo, tanto, in fondo ce lo sentivamo dentro. Ieri l'abbiamo detto, Pier. Esatto, io ho pensato ieri sera al fischio finale e volevo quasi fare un tweet che non ho fatto per scaramanzia, perché non l'ho fatto prima della Roma, non lo faccio prima del Napoli stasera. Però domani, se tutto va come deve andare, lo faccio, nel senso che l'abbiamo detto ieri. Poi ovviamente le partite possono prendere strade sempre molto, molto diverse, quindi però la sensazione c'era, quella di un'occasione che la Roma poteva provare a prendersi, e credo che il Napoli debba fare lo stesso stasera, cioè debba interpretare la partita con la stessa personalità. È chiaro che il Manchester City è in questo momento forse la squadra migliore d'Europa, però attenzione, perché mentre il Chelsea dell'andata aveva probabilmente ancora qualche scoria ed era in un momento non facile, ieri la Roma ha battuto un Chelsea che sta bene, non ha battuto solo i campioni d'Inghilterra, ha battuto nettamente, clamorosamente, una squadra che in questo momento sta molto bene anche in Inghilterra. Quindi io credo sia una enorme impresa e ti dico subito che Di Francesco secondo me merita mille sottolineature. Ma certo, perché, hai ragione Pierluigi. Però poi possiamo portarla su discorsi filosofici, come faremo poi con Napoli, Manchester City, le due più belle d'Europa, il calcio bello. Come la mettiamo con la storia che noi siamo Calimero in giro per l'Europa, gli inglesi sono belli fighi e vincono sempre, gli spagnoli hanno Messi, Cristiano Ronaldo e noi Cenerentola? Come la mettiamo con questo discorso? Come la mettiamo con il fatto che noi siamo dei poveretti e loro sono dei ricconi? No, allora, gli inglesi in realtà da qualche anno vincono poco, eh? Questo è sì, il punto di partenza. Ma gli spagnoli... io sto citando un luogo comune. Luigi? Pierluigi Pardo, next time. Fabrizio Roncone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno Fabrizio, a proposito di tweet che Pardo si è tenuto nel dito, visto che si fanno con il telefono, e che tu invece hai espresso, io voglio far sentire a todo il mondo questo audio che riguarda te e De Rossi. Sì, sì, dobbiamo salutarlo, gli faccio soltanto vedere quello che lo aspetta adesso quando farà dei passi fuori dallo stadio, perché questo è l'umore dei tifosi. È un giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, che lo scrive: e notte così che guardi il cielo e pensi, grazie ad avermi fatto nascere la Roma, campo testaccio, Roma capoccia. Ecco, Daniele De Rossi. Insomma, sarà bello, ecco, mescolarsi tra i tifosi della Roma adesso. Se posso permettermi, non so chi è questo, non ho letto chi era il signore, quindi non ce l'ho con lui, ma noi dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista. Quindi ricordiamoci quando le cose andranno bene. Il signore Fabrizio Roncone, citato, che credo che Rossi conosca, è a cui concedo diritto di replica al capitano della Roma. Ah, vabbè, io non pretendo che il capitano della mia squadra, il grande Daniele De Rossi, colga la poesia che c'era dentro quel leggerà Twitter. I giornali, voglio dire, guarderà la televisione. No, io mi auguro che capisca la poesia, cioè non pretendo che capisca la poesia che c'era dentro quel Twitter. Il mio Twitter era il Twitter di un tifoso della Roma, come tanti, che come dire, ha vissuto stagioni tragiche in Champions. Ricordo il 7-1 a Manchester contro lo United, subito a Manchester contro lo United, ricordo il 7-1 subito in casa contro il Bayern. Insomma, i tifosi della Roma sono rimasti, come dice De Rossi, sempre molto tifosi della Roma, e noi siamo sempre andati allo stadio, ci siamo messi sempre davanti alla televisione, ci siamo sempre attaccati all'ultima radiolina per sentire l'ultima radiocronaca. Naturalmente è stato faticoso, suppongo che per lui, che guadagnando 5 milioni l'anno, sia stato un po' più facile ammortizzare i 7-1. Già. Per noi, diciamo, per noi tifosi no. Ma insomma, adesso non pieghiamola su una piccola polemica. La cosa vera è che ieri sera abbiamo visto una Roma che ha colpito, secondo me, per due aspetti. Il primo, di testa. Cioè, la testa della Roma è stata straordinaria. L'intensità con cui ha giocato, la voglia con cui andava a cercare il pallone tra i piedi del portiere del Chelsea, il pressing portato con 4 giocatori. Cioè, anche sul 2-0 la Roma ha dato l'idea di cercare il 3-0, e questa è stata la prima cosa che ha sorpreso. Ma io dico che ha sorpreso non solo i tifosi della Roma, raramente si vedono squadre italiane giocare così nella metà campo avversaria, peraltro, come diceva Pier giustamente, di un Chelsea che, se poteva essere sospettato di non essere in salute all'andata. Ieri era in grande forma. L'altra cosa che secondo me va sottolineata, ed è decisiva questa, può rivelarsi decisiva, diciamo così, è che i 3 gol della Roma arrivano forse per la prima volta in modo evidente, direi plastico, seguendo gli schemi che Di Francesco sta, come dire, invocando e predicando da quando ha preso in mano la Roma, e cioè questo taglio centrale verso il centro dei laterali. I due gol di El Shaarawy, che parte da destra e va a impattare il pallone quasi al centro dell'area. Il gol di Perotti, che parte da sinistra e si accentra anche lui al centro dell'area. Ecco, ieri la Roma gioca e segna, ma soprattutto segna secondo gli schemi che piacciono a Di Francesco. E questo è un ottimo segnale, perché vuol dire che la Roma comincia ad assimilare l'idea di calcio di Di Francesco. Cioè, ha già cominciato da un po' a assimilare l'idea di calcio di Francesco, mi pare, Fabrizio. Sì, perché però comunque ti sottolineo un altro dato: sono 4 partite che la Roma non subisce gol. Questo non è tanto da Di Francesco, ma è sintomo di una squadra che conosce se stessa. No, ma poi scusate, posso dire eccolo qua, Pierluigi. Sì. No, ma io vi ho ascoltato, ero qui a oltranza. Di Francesco ha questa etichetta di Zemaniano, ma se noi guardiamo il Sassuolo in questi anni non è una squadra che ha subito tanti gol, cioè ha avuto un andamento abbastanza normale. Quindi Di Francesco rappresenta una sintesi, secondo me, tra l'ispirazione del calcio offensivo di Zeman e una logica molto più pragmatica. Anche perché ieri sera, a un certo punto, forse pensando anche a un eventuale possibile problema di differenza reti, quando capisce che la partita è sua e sta 3-0, non esita a mettersi in 5 dietro, no? Ma anche appunto lo 0-0 con l'Atletico Madrid da difendere nel finale. No, io trovo che ieri, ho anche fatto un tweet, secondo me la cosa più impressionante della Roma sia stata la capacità, che poi era una cosa che aveva evocato Di Francesco in conferenza stampa, la capacità di difendere tutti insieme. Cioè, per carità, Juan Jesus è migliorato, Fazio ieri sembrava Franco Baresi, Alisson è un portiere che dà garanzie, ma al di là dei meriti di questi tre, che sicuramente ci saranno, cioè questi tre si beccano questi meriti un po' perché sono migliorati loro, ma soprattutto perché la squadra difende bene e difendono tutti. Bravo. A cominciare da Perotti, questo, da Sharawi. Perotti ha fatto nel primo tempo una partita di sacrificio enorme, e i tre centrocampisti del primo quarto d'ora hanno un po' faticato, poi però sono cresciuti veramente tantissimo. Quindi io davvero devo dire che sono rimasto molto molto colpito dalla Roma vista ieri sera. Adesso oggi è un po' la gara a quelli che salgono sul no, Pierluigi, sul pullman. Io sul pullman ci sono, mi confermi, no? Visto che ci sentiamo tutti i giorni. È da un po' di tempo che dico che la Roma, secondo me, ha un enorme potenziale. Certo. E ho citato sempre un esempio che secondo me è perfetto, cioè che Di Francesco, a livello di pedigree, a livello di quello che ha dimostrato negli anni, diciamo, della gavetta a Sassuolo, è almeno allo stesso livello di quel grande allenatore che è Sarri. Cioè, quello che dico da questa estate è che non ho capito un certo tipo di scetticismo, perché Di Francesco a Sassuolo ha fatto almeno quello che ha fatto. Lo so, Pierluigi, ma servivano le prove, ma servivano le prove, come per Sarri servivano le prove per Di Francesco. Poi su tutto il resto, sacrosanto, confermo tutto. Cioè, quando fai quel discorso, è la squadra che difende in un certo modo, pratichiamolo, decliniamolo e coniughiamolo sul Milan e sulla croce messa sulle spalle di Bonucci, perché poi alla fine è la stessa storia. Ragazzi, vi chiedo un attimo di time out, traffico 800240024 con Fabrizio Roncone, rimaniamo dopo il traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. Sempre con Pierluigi Pardo e Fabrizio Roncone a parlare della meravigliosa partita, la meravigliosa notte romana di ieri sera. Perdonatemi, ma io vorrei tornare sul populismo e su quella polemica innescata da Fabrizio Roncone, con polemica a distanza con De Rossi. Fabrizio, ragazzi, ma che polemica? Ma che polemica? No, aspetta. Roncone è una delle persone più romaniste che io conosca nella mia vita. Aspetta un attimo. Bellissimo. Perfetto. E De Rossi ha fatto un assist a De Rossi che ha tirato fuori una frase. Sì, ok. Aspetta. Tanto bella, appunto. Bella, però scusami. Non c'è nessuna polemica, però Fabrizio giustamente ha risposto. È facile essere romanisti quando perdi 7-1, quando perdi 7-1 e becchi 5 milioni di euro l'anno, che può starci. Però io ti dico, è facile anche incazzarsi se sei romanista e prendi 7 fischi dal Manchester United, con pardon, No, Fabrizio. No, insomma, adesso ripeto, io il mio Twitter, ribadisco, era a mio nei miei desideri, era un Twitter pieno di poesia e se passate il termine, molto dolciastro e mieloso, di amore per la Roma. Io non so se De Rossi si portasse dietro qualche rancore, no, evidentemente non nei miei confronti, ma nei confronti forse di certa stampa, ma forse sì, di un certo ambiente romano, può essere. Insomma, io dico che questa città tutto si può rimproverare, tranne di non essere di essere stata e di rimanere romanista nonostante tutto, e nonostante il fatto che questa squadra non vince nulla da anni e soprattutto dopo sofferenze e anche umiliazioni. Quindi, come dire, ai tifosi da Roma non si può rimproverare di non essere romanista 7-1. Il mio Twitter era un Twitter di poesia in una notte che secondo me aveva della poesia. C'era qualcosa di poetico, perché non hai vinto contro una piccola squadra, ma hai vinto contro una grande squadra. Io capisco che delle volte io mi sento tipo Amélie, ve la ricordate Amélie? Cioè sono un po' naif, probabilmente, forse sono democristiano, non lo so. Scusa, ma Amélie, io francamente non ho visto, ovviamente, né polemica da parte di Fabrizio, il suo era un tweet celebrativo della grande partita della Roma, da romanista vero. E non ci ho visto neanche niente di polemico da parte di Daniele De Rossi, cioè secondo me Daniele De Rossi ha detto una frase che non è che sia in polemica col tweet, è una frase che, partendo dal tweet, rivendica il diritto all'appartenenza, e vale per i tifosi della Roma, vale per i tifosi di qualsiasi squadra, nella buona e nella cattiva sorte. Poi non lo so, ditemi se forse sono troppo naif io, ma mi sembra veramente Ok, buona cattiva sorte, però due cose belle. Ok, però se prendi, se prendi sette gol in, in Champions League di fronte a agli occhi di tutta Europa, hai diritto anche di quel giorno lì. Rimango romanista finché vuoi, però ho il diritto di che mi girano le palle, con pardon. Un'ultima cosa, Fabrizio Roncone, dove va la Roma? Dove va? Adesso è chiaro che il cammino in Champions si è fatto molto interessante. Mi pare di capire che non c'è pronostico, perché dopo il risultato di Madrid di ieri, bisogna giocarsele tutte. Certo, la Roma è messa molto bene, almeno nell'animo, nel cuore, nello spirito. Il campionato, io dico che è ancora una questione aperta anche per la Roma. Sottolineo che ieri sera giocava la stessa squadra sostanzialmente dello scorso anno, con due terzini nuovi, cioè Florenzi e Kolarov. Nella Roma non si sono ancora visti, uno purtroppo non si vedrà fino alla fine del campionato, cioè l'olandese, e non si è ancora visto Schick. Ora, sì, io voglio pensare che questo calciatore così celebrato, che piaceva alla Juve, che sembrava il crack dell'estate, che la Roma ha strapagato, beh, qualcosa valga. Allora mi chiedo, quando arriverà Schick, il potenziale offensivo di questa squadra, quanto ne risentirà in positivo? Se ne risentirà in positivo parecchio, beh, io credo che a questo punto, con la squadra che ha assimilato gli schemi di Francesco, beh, insomma, forse il cammino della Roma anche in campionato può diventare molto più, può ingolosire di più i tifosi, ecco. Sì, sì, sì, d'accordissimo. Grazie Fabrizio, un abbraccio. Grazie a voi, ciao, buona ciao, giornata. Ciao, ciao, Fabri, ciao, ciao. Ciao Fabrizio Roncone. Giancarlo, buongiorno, ascoltatore, buongiorno, da Roma. Buongiorno, dica. Salve, io sono di Roma, sono tifoso della Roma. Telefono semplicemente per dire che quando alla Valle della Campagna acquisti ero molto sfiduciato sulle possibilità della squadra. E invece adesso in questo momento vorrei fare anche dei complimenti a quello che è stato secondo me il miglior acquisto della Roma, cioè Monchi, che sì, praticamente ha fatto una campagna acquisti negletta da tutti, ma secondo me sta dando i suoi risultati. Tutto qui. Allora Giancarlo, io devo dare merito a Pierluigi Pardo, che ha sempre detto queste cose fin dall'alba della stagione. Io ero molto più così scettico nei confronti della Roma, perché dicevo, la Roma si fonda su una serie di scommesse che devono essere vinte tutte, a partire dall'allenatore fino all'ultimo degli acquisti, per essere a livello di quella dell'anno scorso. Pardo ha sempre detto, ma non voglio fare l'avvocato difensore di mio fratello di sta trasmissione, però ha sempre detto, attenzione, la Roma è una squadra di grande qualità. Ragione. La Roma, sì, ha tanta qualità. Poi il discorso della scommessa esiste, nel senso che rispetto ad altre squadre la Roma ha cambiato. Cioè, il discorso che facciamo spessissimo riguardo il Milan. Il Milan è l'estremizzazione di questo concetto, perché ha cambiato veramente mezza squadra. La Roma non ha cambiato mezza squadra, però ha perso giocatori importanti, ha monetizzato, ha preso dei giocatori nuovi, alcuni dei quali tra l'altro si sono anche fatti male, ancora non l'abbiamo visti, ha preso un allenatore nuovo, quindi è abbastanza logico che ci siano dei tempi di assemblaggio. Io però, quello che, al di là del fatto che insomma io a Di Francesco voglio bene, te lo dico proprio, nel senso che è una persona veramente molto molto carina nel mondo del calcio, ed è uno che in questi anni ha fatto calcio di alto livello al Sassuolo, cioè è stato uno che ha giocato a Sassuolo, con tutto il rispetto per il club emiliano, con la mentalità di una grande squadra. E qualche difetto di gioventù, i famosi 0-7 con l'Inter del primo anno, nascevano proprio da questa idea qui, che lui ha provato sempre a giocare a pallone, ha portato il Sassuolo a giocare a pallone, da cui addirittura la clamorosa qualificazione in Europa League. Per cui a me sembrava un allenatore perfetto per poter diciamo abbracciare un percorso con una grande. Poi è ovvio che insomma, rispetto alla continuità, cambiare allenatore ti dà sempre un minimo di chiaro, in più, sì, no? Chiaro, però insomma, mi sembra che le cose stiano andando molto bene. Ripeto, a me l'intensità di ieri ho visto veramente una partita difensivamente strepitosa di squadra. Allora, passiamo invece, con il tuo permesso, Pierluigi Pardo, alle note meno liete della notte di Champions League, questa volta in bianco e nero. Era importante non perdere, quindi un punto di visitante anche va bene contro una grande squadra. Continuiamo a avere 3 punti di vantaggio contro di loro e ora abbiamo due partite e speriamo qualificarci. Era molto semplice, bastava vincere qui e chiudevamo i giochi e affrontavamo le ultime due partite con serenità. Così non è stato. Purtroppo siamo una squadra che abbiamo bisogno di paura per fare delle prestazioni giuste, perché in questo momento non lo siamo. Mi dispiace molto perché poi soprattutto la qualificazione è ancora in gioco, non è niente assolutamente chiuso, perché abbiamo il Barcellona e quindi una partita aperta e poi l'ultima ad Atene dove dipende a cosa succederà qui tra Sporting Lisbona ed Olympiacos, e dopo l'ultima partita potrà essere un inferno. Quindi bisogna ora concentrarsi sul Benevento e cerchiamo di avere rispetto del Benevento e batterlo. Allora, non benissimo invece la Juventus ieri sera a Lisbona, salvata da Higuain, Allegri molto onesto, pessimo Dybala, una notte da dimenticare. Facciamo una notte di passaggio per la Juventus. Saluto Max Nerozzi, cui insieme a Pardo facciamogli in bocca al lupo perché cambia casacca da quella della stampa a quella del Corriere della Sera che apre la redazione sportiva torinese. Ciao Max. Sì, sportiva di cronaca. Seconda metà di novembre ci saranno le pagine torinesi con ovviamente più spazio per Toro. Hai bucato la notizia. Quindi è definitivo, è prescritto con diritto di riscatto? No, è definitivo. Beh, no, non c'è Marotta di mezzo, quindi è definitivo. ma c'è una clausola rescissoria per Nerozzi? È coperta da segreto. Ma come coperta da segreto, Nerozzi? No, è meno di quella di Belotti comunque. Vabbè, adesso non esageriamo. Vabbè, cioè 100 milioni per l'estero. Vabbè, ti mandiamo a fare l'inviato. Bravo. A Porto, città preferita di Pardo. Lo mandiamo lì. Bella lì. Anche Lisbona non è male, dai. Non ricominciamo questa storia, perché sennò non ne esco più, ragazzi. 14:26 del primo novembre, 14:26, 11 secondi del primo novembre. Non me la sento di riaprire questa diatriba con Pardo, che è per Porto e noi tutti siamo per Lisbona, perché noi siamo normali, Pardo meno. Ma no, banalità. Fai bravo. Dai. Allora, restiamo a Lisbona. Pessima Juve, ragazzi. Sì, si è adeguata la notte delle streghe, la Juve ha fatto una partita horror. Questa è la verità, l'atteggiamento è stato pessimo, l'unico dolcetto è stato il gol di Higuain, perché il risultato è di gran lunga la parte migliore della notte, però l'approccio e l'atteggiamento è stato veramente imbarazzante. Infatti Allegri era incavolato in alcuni giocatori, ti dico di più, Dybala si è anche arrabbiato per la sostituzione, ma comunque ha giocato una pessima partita, ma vorrei sottolineare anche Alexandro, non è la prima volta, anzi aveva già giocato in maniera pessima proprio contro lo Sporting, è riuscito a replicare la stessa partita sostanzialmente. Ma ragazzi, io rivesto di nuovo dei panni che non mi competono più di tanto, cioè quelli dell'avvocato difensore, però posso dire, facevamo gli stessi discorsi per Luigi su Higuain, criticato, fuori condizione, adesso segna come una macchinetta, come al solito. Allora, può anche essere che Dybala nell'arco di 10 mesi sia fuori condizione per un certo periodo, può essere che Alexandro, straordinario giocatore, sia fuori condizione in questo momento nell'arco di 10 mesi, no? Quindi non ci vedo niente di così di definitivo o di epocale. No, caro, allungo la tua memoria difensiva. Se si vuole fare un paragone, vi ricorderete le due partite con Lione l'anno scorso, che non furono esaltanti della Juve. C'è un pareggio, poi una vittoria a 10 contro 11, ma con un gol incredibile di Cuadrado. Insomma, le cose migliori anche all'epoca furono i risultati. Allegri mai ci ha abituato che sicuramente autunno-inverno è la stagione in cui deve trovare la soluzione e poi l'allineazione diretta va meglio. È così per tutti, ragazzi, è così per tutti. La Champions non si vince a ottobre, non si vince a novembre. Bravo, Piero, è questo la che Champions dico. Si vince con un percorso regolare e poi andando avanti sempre in un certo modo, giocando in un certo modo e vincendo le finali, cosa che la Juve non ha fatto in questi anni. Ma voglio dire, comunque sia, per avere un percorso virtuoso in Champions, e la Juve l'ha avuto al di là, insomma, ovviamente gli spottò dei gufi che giustamente godono quando poi si perde una finale, ma al di là di questo la Juve ha avuto un percorso virtuoso proprio perché sempre con questo andamento, perché ha rischiato nel 2015 nel girone, ha rischiato lo scorso anno nel girone e poi però, cioè, quantomeno non ha brillato e poi però è andato avanti. Io Ieri onestamente non l'ho vista perché commentavo la Roma, ho visto gli highlights, ho letto i giornali, mi sembra una prestazione sbiadita ma che alla fine è funzionale la qualificazione. Ma sì, non ci vedo niente di epocale, è chiaro che oggi i tifosi della Juventus non sono contenti, è chiaro che oggi tornano certe critiche che sembravano in qualche modo messe in sordina dalle ultime partite in campionato. Non puoi vincere sempre, tantomeno in Europa, dico delle banalità, Max. L'unica cosa preoccupante, secondo me, o comunque seria, se non preoccupante, io prima ricordavo Dybala perché Dybala si gioca bene, lo mettiamo meglio ai toni di Messi, si gioca male, lo caliamo all'inferno. Però non è una cosa dei singoli, anche se Alessandro, ripeto, ha giocato male. È un po' atteggiamento e Allegri, se ti ricordi, non è la prima volta che lo fa notare. Qualche domenica fa con voi ne parlammo, ricordate la famosa battuta su Matuidi dopo Sassuolo, dicendo: ah, fantastico giocatore, lo fa subito giocare, corre, sta zitto. Tutti pensarono a un messaggio soprattutto di Higuain, in realtà non c'era solo Higuain di mezzo. È un problema un po' generale, secondo me, di atteggiamento e, come dicevamo prima, di trovare la formula giusta. Ieri, per esempio, nel finale abbiamo visto un Cuadrado terzino destro. È chiaro che in pianta stabile è temerario, faresti molta fatica, però come soluzione durante la partita c'è stata. E poi deve trovare anche un pelo più di equilibrio, perché, per esempio, Khedira è stato fantastico a Udine in campionato. Ieri sera oggettivamente Matuidi e Douglas Costa sono entrati, dopo 5 minuti erano per distacco i migliori in campo. Quindi è evidente che nelle dosi anche dei nuovi arrivati non c'è ancora quella chimica, chiaro, che Allegri ha saputo dare invece gli ultimi 3 anni in Champions. Sì, però torno a ripetere, adesso poi ci fermiamo per la borsa, però torno a ripetere, i tifosi della Juve oggi sono critici come soprattutto sempre, nei confronti di Dybala. Poi guardi i dati di fatto, guardi la classifica del campionato, guardi la classifica della Champions, insomma, ragazzi, cosa vi manca? No, nulla. E allora, cioè, secondo me il dato politico, come direbbe il mio amico Pardo, è questo, no? Sì, il dato politico è questo. Ah, il dato politico è questo, è chiaro che siamo un po' in ritardo nell'inserimento dei nuovi. Questo mi sembra un po' la sintesi di questi primi 2-3 mesi di stagione. C'è un po' di ritardo nell'inserimento dei nuovi, anche se Allegri questo aspetto ce l'ha un po' di suo, cioè uno abbastanza prudente nel cambiare la squadra. Però, insomma, ripeto, per me le chiacchiere stanno a zero. La cosa più preoccupante per la Juve, secondo me, è che in Italia ci sono squadre quest'anno molto più competitive. Chiaro, questa è la cosa. Sì, assolutamente. Se fosse Allegri, secondo me, è il pensiero più... Assolutamente. Quello che lo può preoccupare di più. Perché per il resto mi pare che, insomma, la squadra... Assolutamente. Verissimo. Avanti, la Champions continuerà e da febbraio se ne parlerà. I lavori sono in corso per riuscire a costruire qualcosa di tatticamente interessante per poter vincere l'Europa, come è successo l'anno scorso con 4-2-3-1. Insomma, vedremo. Va bene, ci fermiamo per la borsa. Ciao Max Nerozzi, a presto. Un bocca al lupo di nuovo. Allora, borsa, torniamo. 800-24-0024, numero verde. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Tutti convocati. Io in questo momento non la considero imbattibile, perché di imbattibile nel calcio e nella vita non c'è niente. La considero in questo momento la miglior squadra d'Europa, allenata dal migliore allenatore del mondo. Tanto rispetto per i Napoli, per come giocano, per tanto rispetto a questo gioco. Ma è una partita di calcio, un gioco, no, non c'è paura per quello. Trattare di fare una bella gara, interpretarla bene. Beh, sarà una partita molto rock, quella di questa sera, caro Pardo. City, Napoli contro City, lo spettacolo più bello del mondo, almeno per quello che può offrire il calcio europeo in questo momento. Troppa enfasi? troppo zucchero, troppo miele? No, no, no, assolutamente, grandissima partita fra due squadre enormi. Manchester City ho la sensazione che in questo momento sia la squadra migliore d'Europa, e Napoli da questo punto di vista secondo me non è fortunato, nel senso che si è trovata nel gruppo il City nel momento in cui è veramente lievitato ed è diventato ancora più forte di quello che sembrava potesse essere all'inizio dell'anno. E detto questo, il Napoli secondo me deve giocarsela con lo spirito che ha mostrato la Roma ieri, cioè coraggio, esatto, e attenzione, esatto, coraggio e attenzione, coraggio e concentrazione. Il coraggio a Manchester c'è stato dopo i primi 20 minuti pessimi, e insomma, stasera è molto importante. È chiaro che a differenza della Roma ieri è una partita per il Napoli ancora più delicata, perché la situazione del girone è complessa e quindi questo potrebbe in qualche modo appesantire la testa, però insomma Napoli è forte secondo me, ha dimostrato all'andata di essere una squadra che riesce comunque per larghi tratti di gara a giocare alla pari con la squadra in questo momento più forte e più in forma d'Europa, quindi bisogna fare l'impresa, non c'è molto da discutere. Secondo te cosa ne pensa il tuo amico Raffaele Auriemma? Ma secondo me è d'accordo, però sentiamolo. Eccolo. Proviamoci. Se dici, Raffaele. Dottor Auriemma, buongiorno. Non mi conosci fin troppo bene, perciò sai che la penso pienamente come te, con un particolare in più. Io sono un perfezionista, quindi il Napoli è perfettibile, e l'unico modo che ha per riuscire ad essere agli occhi tutti una squadra, non dico come il City, ma giù di lì, è quello di cominciare le partite un po' prima rispetto a quando poi lo vediamo giocare. Quando mamma mia, Raffaele, che roba che sei! Oh, è il pelo nell'uovo e niente, is nothing con you, con te. Ma il pelo nell'uovo ti serve per vincere, altrimenti quando la competitività si alza in Serie A e così, in Champions non ne parliamo nemmeno. Perché giustamente Sarri dice: noi dovremmo chiedere alla UEFA di far scendere in campo il City dal 21esimo minuto, rivedendo e ripensando alla gara dell'andata. Però anche il Napoli, e non solo contro il City, quest'anno ha dimostrato di avere un inizio rallentato, la classica automobile che ha il motore diesel, quindi si deve riscaldare. Se il Napoli riuscirà a ridurre i tempi di riscaldamento del proprio motore, quindi passare da 20 minuti a 5 dell'inizio della gara, allora sì che sarà una formazione in grado di poter battere anche il City. Ma se tu al City, e questo non è pelo dell'uovo, caro Giovanni, ma è Giovanni, in realtà Giovanni Carlo, Carlo. Scusami, perdona. Giovanni Rana, signor Giovanni Rana. Esatto. Se tu al City ti regali i 20 minuti anche al San Paolo, ma vuoi che loro non se li prendano quei 20 minuti? Perciò insisto su questo punto, che è fondamentale per la crescita definitiva di un Napoli, che vederlo migliorare nei singoli è complicatissimo, è una squadra fin troppo forte. D'accordo. Guardiola insomma usa tutto il suo bon ton nei confronti del Napoli, una squadra che vorrei vedere da spettatore, tutte queste cose qui. Io dico che questa sera si divertirà poco il suo City, che è un rullo compressore in campionato, secondo me ha un po' meno di DNA europeo, ma questo lo scopriremo vivendo. Rimane una squadra straordinaria e mi aspetto una grande partita, che il Napoli peraltro, Pier, classifica alla mano, numeri alla mano, insomma non ha molte chance, deve vincere. Sì, il Napoli deve vincere, non ci sono grandi calcoli da fare, perché comunque la sconfitta in Ucraina della prima giornata complica tutto maledettamente, quindi ma l'ha detto ieri Sarri tutto in quella conferenza stampa, insomma bisogna farli andare dove c'è l'acqua alta, bisogna togliere certezze al Manchester City. Napoli c'è una partita di grandissima intensità, è una notte di esami. Io ieri le ho avvicinate queste due partite, quella della Roma e quella del Napoli, perché secondo me hanno due chiavi simili, perché secondo me, insomma, lo abbiamo detto ieri, pur mantenendoci schisci, come dicono a Milano, per la scaramanzia, perché c'è la possibilità. Ieri la Roma l'ha dimostrato facendo una partita perfetta, oggi il Napoli deve fare lo stesso. Non ci sono grandi alternative, deve fare una partita di enorme intensità e deve fare una partita di grande qualità, prendendo il controllo del gioco fin dai primi minuti, facendo valere il fattore campo. Questo è quello che penso. poi ovviamente sono partite che possono essere decise anche dai dettagli, dalle situazioni, dagli episodi, mancherebbe altro. Sì, no, no, 50.000 del San Paolo comunque devono pesare. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, abbiamo il traffico, torniamo a chiacchierare amabilmente su questa gara che tutti stiamo aspettando tra pochissimo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Tutti convocati. Dobbiamo avere un impatto alla partita nettamente diverso rispetto alla partita d'andata. Dobbiamo cercare di portarli nell'acqua alta, nel senso che loro sono una squadra che spesso al trentesimo è in vantaggio o in doppio vantaggio, e noi dobbiamo portarli al risultato ombilico, e quindi dobbiamo cercare di portarli dove loro non sono abituati. Allora io voglio chiedere una cosa a Raffaele Aurier, ma Sarri sta diventando un professionista, un top coach delle conferenze stampa, ma chi gli scrive i testi? Chi lavora con lui, Raffaele? No, si scrive tutti da solo, hai visto che comunque ha praticamente detto quello che ti dicevo prima. Meraviglioso. Bisogna avere un impatto completamente diverso, cioè partire in quarta subito, anche perché lo ha detto, il City è la squadra che segna di più in Champions nei primi 15 minuti, ha segnato 4 gol fino a questo momento, e non è un dato relativo al campionato, perché nei campionati è il Napoli che segna di più nei 15 minuti, ha segnato 6 gol così come la Lazio. Allora avere l'impatto diverso significa avere una concentrazione notevolmente superiore, e questo te lo dà il San Paolo, questo è l'uomo in più. In questi casi al Napoli, quindi alla squadra di casa, ti dà quella spinta, l'accelerazione propulsiva iniziale, mentre al City, che tutto sommato, ha ragione Guardiola, non ha calciatori esperti di questa competizione. Io me lo auguro, può darsi che non accadrà, però qualcuno potrebbe anche restare un po' condizionato dal fermento che troverà stasera al San Paolo. Lo pensi anche tu, Pierluigi? San Paolo come fattore anche per una squadra che tutto sommato è Man City. Io ho commentato il famoso Napoli-Manchester City 3-1 di quanti anni fa era? Di alcuni anni fa. 4 anni fa, credo. Sono 5 era, anni fa. Allora, 2-1 era 6 anni fa. 22 novembre 2011. Sei anziano, Paolo, sei anziano. Il Napoli Villarreal, Napoli Manchester City, lo stesso Napoli Chelsea, della quale non ho fatto io la telecronaca. Sono partite dove il San Paolo è un fattore. Poi il San Paolo è uno stadio che sente la Champions in maniera veramente particolare, in maniera veramente speciale, al di là dell'urlo che sappiamo è addirittura oggetto di studio da punto di vista quasi dei sismologi, ma al di là di questo sicuramente no, è un fattore, il San Paolo è un fattore, il ritmo del Napoli è un fattore. Io penso che il Napoli ci debba credere, perché il Manchester City è in testa al girone. Oggi viene a Napoli, deve fare una buona partita sicuramente, ma potrebbe avere meno fame del Napoli. Sì, questo è vero. E il Napoli questa cosa la deve mettere sul piatto, un po' come ha fatto la Roma ieri col Chelsea. Perché la distanza, secondo me, dal punto di vista tecnico non è più tanta, perché comunque si gioca in casa della squadra italiana, quindi è parallelismo, secondo me, assolutamente perfetto, e penso e spero che San Paolo faccia la differenza. E poi, Raffaele, per chiudere, il signor Dries Mertens, che in questo momento è, secondo me, ma credo anche secondo Pardo, condividiamo questa idea, il miglior giocatore del campionato italiano, questa sera potrebbe trovare lo stimolo per cercare davvero una notte da re anche in Europa. Sì, ce lo auguriamo in maniera forte tutti quanti, perché Dries è l'uomo in più di questa squadra. Gli basta un tocco per segnare un gol e vincere una partita. Ha imparato anche questo. Lui è diventato bomber in questo. Non ha la necessità di sovraesporsi nel corso del match, perché magari per larghi tratti della stessa la difesa si tiene bene. Lui gli basta un tocco. Segna. La faccia del tocco. A me tutte le volte che parlo di Mertens viene in mente quel gol col Genoa, ragazzi. Quel controllo con la suola. Una cifra tecnica come ce ne sono poche in circolazione, però se proprio dovessi augurarmi un realizzatore decisivo questa sera, io vedrei in Mare Kamsik l'uomo giusto, perché il avrebbe capitano. Tutta una serie ma di valori. Ma quel riferimento di Sarri era lui? Io penso proprio di sì, Pierluigi. Ho fatto un riferimento detto... che vorrebbe vedere segnare uno che non segna ultimamente, che è sempre almeno uno da Maradona, al di là del fatto che insomma i record contano poco, soprattutto perché insomma un record di gol contro Maradona, cioè Maradona è incomparabile, cioè, per definizione, sì, no? Okay, se non però non è chiaro che per Hamsik questa sarebbe una grandissima, sarebbe una grandissima dire che non sia condizionato da questo traguardo significa non rappresentare il vero, certo, perché certo. Uno come lui che ha segnato un solo gol in 1180 minuti quest'anno non gli era mai successo in precedenza, allora sentire la gamba pesante perché stai per arrivare lassù credo che sia umano. E nel momento in cui ci riuscirà, cioè arriverà, io sono convinto che Hamsik tornerà a segnare con la regolarità che gli conosciamo, che noi conosciamo da te. Grazie, secondo Raffaele. Il essere umano, secondo me, rappresenta anche un po' un ulteriore sintomo della napoletanità di Hamsik, che non è uno nato a Mergellina, ma che sappiamo uno che ha abbracciato la causa con. No, ma ha preso il passaporto di Mergellina, di Napoli. Grazie, Raffaele. Ciao Carlo, ciao. Io ciao, con Pierluigi Pardo volevo chiudere un discorso tornando a bomba, cioè alla notte dell'Olimpico di ieri, perché c'è la faccia meravigliosa della Roma ma c'è anche quella vagamente nervosa di Antonio Conte, che sentiamo. Siamo stati sfortunati e sapete benissimo che a me non piace parlare di fortuna o sfortuna, però io penso che il primo tempo sia stato ingiusto finire 2-0. Invece il secondo tempo sicuramente è stato un brutto secondo tempo sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo capire che la pagnotta ce la dobbiamo guadagnare, dobbiamo alzare le zolle dal campo se vogliamo pensare di andare avanti in Champions, se vogliamo pensare di essere lì a combattere per qualcosa, altrimenti tutta fatica sprecata. Allora Pierluigi Pardo, tu che hai visto la partita e l'hai commentata, commentami anche queste dichiarazioni di Conte. Si appella alla sfortuna quanto riguarda il primo tempo, però quando insomma in valore assoluto, quando prendi tre fischi, parlare di sfortuna è riduttivo. Guarda, ieri gli episodi della partita, intesi come errori individuali e prodezze, sono stati certamente a favore della Roma, come nella partita andata invece sono stati a favore del Chelsea. Cioè il discorso di Conte non mi piace molto, tra l'altro se lo consideriamo valido allora dobbiamo dire che il Chelsea è stato fortunato all'andata, perché se la Roma ha fatto 3-3 all'andata, bravo, perché ha fatto degli errori suoi, per carità, ha fatto degli errori gravi suoi, ma dal punto di vista della prestazione del gioco è stato nettamente superiore. Ieri certamente nel primo tempo il Chelsea sul piano della manovra non è stato inferiore alla Roma e ha pagato degli errori individuali e delle prodezze di Al-Sharawi, e quindi sicuramente il 2-0 alla fine del primo tempo era un risultato pesante per il Chelsea per quello che si era visto in campo. Però ripeto, il calcio è questo mix, è un mix di qualità complessiva e episodi. Gli episodi contano tanto e secondo me nella partita d'andata la Roma non, insomma, gli episodi non li aveva avuti a favore, perché se sul piano della manovra sarà nettamente superiore. Quindi non lo so, non mi convince del tutto, ma ho la sensazione anche da alcuni virgolettati così diciamo fra i conti raccolto ieri che Conte sia consapevole che quest'anno sia dura. Sì, è dura, ma detto tra noi, visto che stiamo chiudendo il programma, detto tra noi, secondo te Conte rischia qualcosa? In Champions League il Chelsea tutto sommato, secondo nonostante la sconfitta di ieri, non è messo male perché ha vinto a Madrid. L'Atletico a pareggio si è incartato sul Karabakh. In Champions non rischia. E si va verso insomma un verdetto abbastanza chiaro, abbastanza preciso. Ma rischia una resa dei conti, però rischia una resa dei conti. C'è il Manchester United adesso in campionato. E, insomma, non è una situazione semplicissima. E sappiamo che anche l'anno scorso, nonostante il trionfo, comunque qualche momento di frizione c'era stato. Ieri la squadra di Conte sembrava quella di Francesco, per sì, quello che noi sì, no, siamo, per come siamo abituati a considerare Conte, cioè la squadra Conte ci ha lasciato sia con la Juve che con la Nazionale il senso di squadre affamate, di squadre che ti aggrediscono su ogni pallone, molto concentrate, molto ciniche. Ecco, ieri sembrava la sua non sembrava una squadra di Conte e la Roma di Francesco sembrava una squadra di Conte in quel senso lì. Quindi verissimo, veramente nelle due partite di Francesco ha dato una lezione, non c'è nulla da. No, assolutamente. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao Pierluigi Pardo, domani, stasera ci guardiamo il Napoli tutti insieme, appassionatamente. ci guardiamo. Napoli City domani parliamo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.